La volpe e il busto, da favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. I grandi, presi in blocco, sono di solito larve di commedianti, che fanno effetto sol sugli ignoranti. I ciuchi a lor s'inchinano, perché capir non sanno più in là di quel che vedono. Ma i furbi, che con più prudenza vanno dapprima, non si fidano, se in ogni parte chiaro non ci vedono, o come quell'antica volpe fanno. Un dì, narra la favola, innanzi a un colossale busto d'un grande eroe, la volpe si fermò e subito esclamò: «Testa stupenda e nobile opera di scalpello, ma vuota di cervello. Di quanti, miei signor, anch'io direi l'eguale». Fine della favola, La volpe e il busto. Questa registrazione è di dominio pubblico.